Bologna! È il 13 dicembre, il giorno prima della grande manifestazione romana che ha messo a ferro e fuoco la capitale. In questo caso i manifestanti si trovano a Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati. Ma questi che protestano non sono studenti o metalmeccanici, sono poliziotti. Siamo tutti con voi, con la sicurezza! Ci autocarichiamo da soli, non vi preoccupate! Non ci sono gli uomini, non ci sono i mezzi. La notte le macchine sono ferme, talmente sono poche che escono su chiamata. Io sono andato a Carino a fare la testimonianza, sono andato con i miei mezzi, a mie spese. Il primo atto di governo è stato la manovra tremante del Premier, che ha tagliato gli operatori che ogni giorno vedono. We'll be right back. soccorso, un finanziere viene aggredito. Subito dopo riusciamo a intervistarlo. Ha visto manifestazioni pacifiste, sì? Come so, guarda, come so. Ma hanno preso 50 lì. Veramente? Ho fatto? Ho un collega, 20 persone addosso, calci, pugni, bastonate. Guarda, noi prendiamo la giacca nuova ogni 4 anni ce l'hanno una, vedi che succede?